Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Luigi Di Maio annuncia ai ministri grillini le dimissioni dalla guida del Movimento 5 Stelle. Alle 17 la conferenza stampa. Conte rispetto alle sue scelte. Cina, il virus può mutare e diffondersi velocemente, ammettono le autorità cinesi. Il rischio di importare casi in Europa sale da basso a moderato. Dipendenti dell'ASL di Reggio Calabria alle slot o a fare la spesa, notificati 13 provvedimenti. Grecia eletta la prima presidente della Repubblica donna. Sport tennis, secondo turno amaro per Berrettini e Sinner, fuori dagli Australian Open, in campo Fognini contro l'australiano Thompson. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata fino alle 13.15, la sintesi della giornata di oggi e poi dalle 13.15 i nostri approfondimenti. Iniziamo naturalmente con le notizie di questa mattina sulla politica. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio annuncerà le sue dimissioni nel pomeriggio con una conferenza stampa, dimissioni che sono già state anticipate questa mattina al termine di una riunione con i ministri grillini ed era una decisione nell'aria. Ne ha parlato oggi anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sentiamo. Manca solo la dichiarazione pubblica in diretta Facebook nel pomeriggio, ma ormai è ufficiale. Luigi Di Maio lascia la guida del Movimento 5 Stelle. La decisione è stata annunciata alla riunione dei ministri del Movimento a Palazzo Chigi. L'annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori regionali al Tempio di Adriano. Cresce in queste ore l'ipotesi di affidare la reggenza del Movimento a Vito Crimi in vista degli stati generali previsti nella metà di marzo. Un appello all'unità viene dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Adesso parlerà lui oggi pomeriggio. Adesso la cosa importante è restare uniti, tenere tutti uniti nel movimento. Tutti uniti vuol dire essere uniti nel movimento nel scegliere insieme la strada per il futuro. Ma altre voci come Carla Ruocco chiedono più collegialità, mentre il passo di Di Maio potrebbe anche preludere a un nuovo rilancio di una sua corrente contraria all'alleanza con il PD, favorita invece da Grillo e anche da quello che potrebbe essere il rivale di Di Maio, l'attuale ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rispetto alle sue scelte, ha detto il presidente del Consiglio Conte, riferimento a Di Maio, ma quali saranno le ricadute di questo annuncio sul governo? Dal voto regionale al caso Di Maio, dalla prescrizione ad autostrade, il premier Giuseppe Conte a tutto campo questa mattina cerca di infondere tranquillità alla sua maggioranza. Le elezioni regionali non saranno un voto sul governo, dice Conte. Di Maio è stato tirato per la giacchetta, ma se la decisione di lasciare è sua, la rispetterò. Conte continua poi a respingere l'idea di un suo partito, non ci penso proprio. Il premier conferma come prioritari gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale e di riforma dell'IRPEF, soprattutto a favore dei ceti medio-bassi. Sul caso Gregoretti, sostiene Conte, la presidenza del Consiglio è stata coinvolta solo nella distribuzione di migranti agli altri paesi, mentre la decisione sul se, come e a quali condizioni sbarcare le persone fu di Salvini. Caso autostrade. Sono emerse gravi inadempienze, dice Conte, ma l'iter è ancora in corso e voglio che la decisione finale sia condivisa da tutti nel governo. Infine la riforma della prescrizione. Il clima ieri è stato buono. Torneremo a incontrarci. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo del nuovo virus apparso in Cina. I casi accertati hanno superato i 400, le vittime sono salite a 9. Intanto le autorità cinesi ammettono che il virus può mutare e propagarsi più facilmente di quanto previsto. Sale da basso a moderato il rischio di importazione in Europa del nuovo coronavirus cinese simile alla SARS e a fare il punto nel pomeriggio sulle misure da adottare una riunione tra Commissione Europea e Stati membri e a Ginevra l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrà decidere se si tratta di una emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. Dopo il primo caso negli Stati Uniti su una persona di ritorno da Wuhan, focolaio dell'epidemia, il presidente USA Donald Trump rassicura gli americani: abbiamo un piano, dichiara, e pensiamo che sarà gestito molto bene. Primo contagio a Hong Kong. Anche in questo caso la persona è arrivata da Wuhan con un treno ad alta velocità. La città cinese ha infatti esortato tutti a tenersi lontani, cancellando un importante evento del Capodanno lunare che inizia venerdì e genera lo spostamento di milioni di persone verso la Cina e al suo interno. Il tasso di mortalità è al momento piuttosto basso, ma il nuovo virus, riferiscono le autorità cinesi, può mutare e propagarsi più facilmente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la cronaca torniamo in Italia. Nel Lucchese una ragazza di 14 anni è morta la scorsa notte in un incendio che si è sviluppato in una abitazione. Sentiamo. È stata trovata priva di vita dentro alla sua camera da letto dai vigili del fuoco intervenuti per l'incendio. Al momento del rogo in casa, la ragazza di 14 anni era sola con il padre. L'uomo di 49 anni è rimasto ustionato nel tentativo di salvarla dalle fiamme. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, mentre l'immobile, una casa colonica bifamiliare nel comune di Borgo a Mazzano, in provincia di Lucca, è stato messo sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Disposta anche l'autopsia sul corpo della ragazza. La madre non si trovava in casa al momento dell'incendio. Avvertita dell'accaduto, ha cercato di raggiungere il luogo in auto, ma ha avuto un incidente ed è rimasta non gravemente ferita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Calabria per una nuova storia di dipendenti pubblici assenteisti, o giudicate voi, si allontanavano dal luogo di lavoro per giocare alle slot machine o anche per fare la spesa. Per questo i finanzieri della Compagnia di Palmi hanno notificato oggi 13 provvedimenti nei confronti di altrettante persone. Sentiamo. Giocavano alle slot machine, facevano la spesa, andavano in palestra o a godersi una giornata di relax al mare e in alcuni casi partecipavano a dei funerali. Erano tante le attività svolte dai furbetti del cartellino dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in servizio presso il polo sanitario di Taurianova. Nell'ambito dell'operazione antiassenteismo denominata Polo Solitario, i finanzieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito 13 misure cautelari nei loro confronti. Nel corso della stessa operazione sono state notificate anche 38 informazioni di garanzia e sono risultate indagate altre 25 persone. Il provvedimento non è che l'epilogo di una complessa inchiesta dalla quale è emerso che gli indagati, approfittando della mancanza di controllo da parte dei loro dirigenti, dopo aver timbrato il badge o firmato il foglio di presenza, anziché dedicarsi alle loro mansioni essenziali per la collettività, si allontanavano dal luogo di lavoro in maniera sistematica, per dedicarsi invece in modo fraudolento alle più disparate attività di carattere personale. L'indagine ha permesso inoltre di evidenziare che gli indagati non solo non effettuavano le ore di servizio previste, ma attestavano falsamente lo straordinario fino a più di 30 ore mensili. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giornalisticamente detti furbetti del cartellino, possiamo tranquillamente definirli anche dei truffatori. E a proposito di truffe, un maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova ha recuperato 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina in violazione delle norme comunitarie. È stato subito distrutto il carico di carne suina di origine cinese sospettata di contaminazione con la peste suina africana, che era riuscito ad arrivare in Veneto violando le norme doganali e sanitarie. Il carico si trovava sul fondo di un tir. Il camion era passato da Rotterdam prima di arrivare in Italia, a Padova. La Guardia di Finanza, in collaborazione con il servizio veterinario e il servizio igiene, alimenti e nutrizione, l'ha scovato e sequestrato e quindi subito incenerito. Così sono finiti sotto i sigilli quasi 10 tonnellate per pericolo di contaminazione della peste suina africana, malattia che colpisce suini e cinghiali e non è trasmissibile agli esseri umani. Inoltre è stata sequestrata anche l'attività commerciale per gravi e reiterate irregolarità. Serve dare immediatamente il via libera all'obbligo dell'etichettatura sull'origine dei derivati della carne suina, ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è da poco atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per poi proseguire per Gerusalemme, dove si tratterà fino a domani. Questa sera parteciperà alle cerimonie per il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. E restiamo di nuovo all'estero, andiamo in Grecia perché è stata eletta la prima donna Presidente della Repubblica. A 63 anni, Ekaterini Sakellaropoulou, presidente del Consiglio di Stato, magistrato esperta in diritto ambientale, è stata eletta con 261 voti su 300, è la prima donna presidente della Grecia. Progressista moderata, il suo nome è stato proposto dal premier conservatore Mitsotakis, che non si è allontanato da quella che è una via sempre battuta dai governi greci, proporre personalità vicine all'opposizione per dare un'immagine di consenso istituzionale. La carica di presidente è per lo più legata al cerimoniale, ma la giudice Sakellaropoulou è nota, ha sottolineato Mitsotakis, per il suo solido giudizio e il suo interesse nella protezione dei diritti individuali. E in un momento delicato per la Grecia come questo, c'è da scommettere che farà sentire la sua voce dentro e fuori i confini nazionali. Atene sta cercando di conquistare posizioni nella crisi libica perché Ankara ha creato un ponte con la Libia, ignorando quasi la presenza geografica della Grecia. La Turchia poi gioca anche sul tavolo dei migranti, aprendo e chiudendo le maglie dei propri confini a seconda dell'interesse politico. A Lesbo ci sono quasi 20.000 persone contro i 3.000 posti del campo di Moria. Oggi, con Lesbo, protestano Samos e Chios, chiusura di tutti i servizi per chiedere il ritorno alla normalità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quanto è sostenibile l'agricoltura italiana? Un tema importante nel momento in cui si parla di emissioni di CO2 e per un settore così importante come l'agricoltura italiana. Se ne è parlato a Fiera Agricola con i dati aggiornati sul consumo di materie prime e anche per quanto riguarda le emissioni nell'ambiente. Sentiamo. L'agricoltura in Italia è sostenibile, va avanti, ma i fondi europei potrebbero essere utili ad allineare tutti gli altri settori, dai trasporti al food, agli obiettivi del Piano Verde Europeo, abbattere del 40% le emissioni inquinanti europee entro il 2030, puntando all'impatto zero entro il 2050. La fotografia, secondo i dati dell'osservatorio Veronafiere Fiera Agricola Nomisma, mostra come l'obiettivo sia a portata di mano nel settore agricolo, come spiega Denis Pantini di Nomisma Agricoltura. Guardando ad esempio le superfici a biologico, noi oggi siamo tra i principali leader in Europa con una superficie bio di circa 2 milioni di ettari che rappresenta circa il 15% di tutta la superficie agricola italiana e veniamo solamente dopo la Spagna e la Francia per estensione. Così come anche le emissioni di gas serra nel giro di 20 anni sono calate dell'12%. Ridotti anche negli ultimi 10 anni gli agrofarmaci e fertilizzanti, aumentate le superfici forestali, riduzione dei rifiuti alimentari sotto la media europea e gli incentivi europei potrebbero quindi aiutarci ad andare oltre. Anche perché al di là del settore agricolo va a toccare anche tutti gli altri aspetti dell'economia, dai trasporti, dall'energia, dall'industria. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Il tennis finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli Australian Open. Il romano sconfitto in 5-7 dallo statunitense Sandgren. Il 18enne alto atesino invece è stato battuto dall'ungherese Fuksovics. In campo c'è ora Fognini contro l'australiano Thompson. Si sta giocando il quarto set, 2-7-1 per Fognini, il risultato parziale. 13:13 minuti, facciamo una pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Intervista al Ministro della Salute Roberto Speranza sulla situazione per quanto riguarda il virus cinese, ma anche con le novità per quanto riguarda la cura di anziani e cronici, novità che prende il nome dell'infermiere di famiglia. E poi cercheremo di fare luce sul caos normativo che riguarda i monopattini in città. Sono come delle biciclette? No, anzi sì, ha detto il governo, ma forse no. Insomma, cercheremo di capirlo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi e per commentare le notizie di giornata c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Colesterolo? Prova Colesterol Act. Colesterol Act contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterol Act, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Effetto Giorno. Luigi Di Maio annuncia ai ministri Grillini le dimissioni dalla guida del Movimento 5 Stelle alle 17 la conferenza stampa. Cina, il virus può mutare e diffondersi velocemente, ammettono le autorità cinesi. Le notizie che ci arrivano dalle organizzazioni internazionali sono di una situazione sotto controllo, rassicura il ministro della Salute Roberto Speranza. Effetto Giorno presenta anche la novità dell'infermiere di famiglia. caos, monopattini in città non sono equiparabili alle biciclette, annuncia il governo, ma poi chiarisce, è in arrivo una nuova regolamentazione, ne parliamo tra poco. Sport e tennis, secondo turno amaro per Berrettini e Sinner agli Australian Open, sono usciti. In campo invece c'è Fognini contro l'australiano Thompson, risultato parziale 2-7 pari. Con noi il ministro della salute Roberto Speranza, grazie per essere con noi, buongiorno, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, per parlare di una novità che si annuncia importante per quanto riguarda un aspetto fondamentale, direi, del nostro sistema sanitario, cioè la cura dei malati cronici e degli anziani. Novità annunciate, recentemente inserite nel patto per la salute. Se pensiamo che insomma, nel nostro paese c'è un 20% di over 65, ma anche si stimano oltre 20 milioni di malati cronici, capite bene l'importanza di questa novità, che è sostanzialmente l'arrivo di un team, di un micro team che lavorerà sul territorio e della figura nuova dell'infermiere di famiglia, che appunto avrà una serie di compiti importanti proprio per gestire queste persone. Ministro Speranza, di cosa si tratta? Ma si tratta del tentativo di dare una risposta migliore a esigenze che arrivano direttamente dal territorio. La vera grande novità di questo tempo è che la nostra popolazione diviene più anziana, si vive più a lungo e questo è un fatto sicuramente positivo e ahimè le nascite sono molto molto ridotte. Una popolazione più anziana porta a un grande cambiamento epidemiologico, esplodono le cronicità sono quei mali che prendi a un certo punto della tua vita e che ti porti praticamente per sempre. Per rispondere alla cronicità serve rafforzare il territorio, perché l'ospedale è naturalmente il luogo dove si risolvono, si affrontano le acuzie, mentre abbiamo bisogno di rafforzare il nostro territorio. L'idea dell'infermiere di famiglia, dell'infermiere di prossimità, è un'idea che tende ad avvicinare insomma un servizio, il nostro servizio sanitario nazionale, all'esigenza della persona, della comunità, delle singole famiglie. Credo che vada nella direzione giusta, sono molto contento che siamo riusciti ad approvare questo patto per la salute, è un patto che sottoscrivono le regioni e il governo nazionale, tutte le regioni all'unanimità, senza distinzione di colore politico, e credo che questo sia particolarmente positivo, anche perché vediamo spesso scontri o altro sulla salute. Siamo riusciti a fare un grande patto che supera le bandierine di natura politica, e dentro questo patto, che è un risultato importante, approvato, sottoscritto nel mese di dicembre, tra le tante cose che si prevedono ci sono più risorse, 2 miliardi di euro in più sul Fondo Sanitario Nazionale, c'è 2 miliardi sull'ammodernamento tecnologico e l'edilizia sanitaria, c'è l'abolizione del super ticket, insomma ci sono nuove misure per provare a dare forza e vigore al nostro servizio sanitario nazionale. Tra le tante misure c'è l'idea di rafforzare il territorio come risposta ai problemi dei nostri cittadini. Tra le varie figure c'è la questione dell'infermiere di famiglia. Mi fa particolarmente piacere, anche perché questo è l'anno internazionale dell'infermiere, e quindi penso che diamo anche un segnale che va nella direzione una giusta. Novità che cade anche con questo tempismo. Senta Speranza, perché diciamo i compiti, per restare su questa figura che essendo una novità attira anche l'interesse naturalmente, questo infermiere avrebbe compiti ambulatoriali, se abbiamo capito bene, per pazienti di un certo tipo, poi anche domiciliari per andare ad assistere e affiancare laddove ci sono badanti e familiari impegnati, e poi anche un lato più sociale, che diciamo di raccordo anche con i sistemi sociosanitari del territorio. Però per quanto riguarda la stima del fabbisogno, se abbiamo capito bene, si parla di 20.000 infermieri. Non è poco, perché uno ogni 3.000 abitanti, per tutti questi compiti che abbiamo elencato, sembra un compito, come dire, sovradimensionato, un'impresa titanica forse, o no? È l'inizio di un investimento, insomma. Io sono convinto che sul Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi anni bisognerà mettere ancora più risorse. Veniamo, ahimè, da una stagione lunga di tagli. Su questa manovra di bilancio siamo riusciti a segnare una marcata discontinuità. Per la prima volta si ricomincia ad investire in maniera molto molto consistente. Bisognerà ancora insistere, sì. È l'impegno che questo governo vuol mettere in campo, ed evidentemente il lavoro di prossimità, di vicinanza sul territorio va proprio in questa direzione. Senta Ministro, due cose veloci di più stretta attualità, visto che abbiamo l'opportunità di parlare con lei. Una riguarda il virus cinese, comincia a essere una preoccupazione, anche se gli infettivologi dicono che, ci ricordano che il tasso di mortalità è più basso di altre epidemie del passato come la SARS per esempio. Poi ci sono stati alcuni casi, alcune vittime e casi anche all'estero. Ci sono delle linee guida in questo momento del Ministero? Qual è la posizione ufficiale italiana? Sì, è una posizione di forte condivisione con gli organismi internazionali che stanno seguendo con tutta l'attenzione dovuta l'evolversi di questa vicenda. Proprio oggi ci sarà una riunione del board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi siamo in strettissimo raccordo con questa istituzione, l'OMS, così come con il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che è in qualche modo la centrale europea che interviene su questa materia, e da subito ci siamo impegnati per alzare il livello di guardia nel nostro paese. I messaggi che al momento arrivano da queste istituzioni internazionali sono messaggi di una situazione che è sotto controllo. In ogni caso, per scrupolo, per precauzione, noi abbiamo già innalzato il livello di attenzione, in modo particolare nei nostri aeroporti e in modo particolare nell'aeroporto di Fiumicino, dove c'è l'unico volo, ce ne sono 3 a settimana di voli che provengono da questa città cinese, Wuhan, che è una città importante perché conta oltre 10 milioni di abitanti, dove il virus è stato riscontrato, riconosciuto per la prima volta, e dove insomma il livello di attenzione in questo momento è molto alto. C'è un meccanismo costruito con degli scanner all'aeroporto di Fiumicino che consentirà di misurare all'arrivo di questi passeggeri la temperatura corporea. In caso di anomalie loro proveranno a costruire, diciamo, poi dei percorsi di natura di osservazione, di tutela e di monitoraggio. Senta, un'ultima cosa, Ministro Speranza, gliela voglio chiedere relativamente alla proposta del sindaco di Milano Beppe Sala sul fatto di creare una città smoke free entro il 2030, cioè divieto di fumo ovunque, lui dice a partire dai luoghi dove non ci si può allontanare da chi fuma se non si è fumatori, per esempio le fermate dell'autobus, o l'ultima proposta riguarda lo stadio di San Siro. Lei personalmente, ma anche come ministro, cosa ne pensa? È d'accordo? Ma io credo che la battaglia per ridurre l'uso delle sigarette, la battaglia contro il fumo, sia una battaglia giustissima. Il fumo è, ahimè, ancora causa di enormi complessità per le persone, quindi dobbiamo naturalmente essere d'accordo con tutte le proposte che vanno nella direzione di una riduzione dell'uso delle sigarette. Come è noto, il danno lo si produce non solo direttamente a se stessi quando si fuma, ma anche alle persone che in qualche modo si trovano a contatto nelle vicinanze di questa persona, e quindi dal mio punto di vista tutte le iniziative che vanno nella direzione di ridurre l'utilizzo delle sigarette, quindi la battaglia contro il fumo, credo che vada nella direzione giusta e siano degne di essere sostenute. Bene, grazie allora Ministro Roberto Speranza per essere stato con noi, buona giornata. Eccoci qua, 13:24 minuti, vedo che anche sui messaggi al 349-238-6666, qui mi invito a scrivere anche per commentare quello che avete appena sentito, ci chiedete notizie sulle esplosioni che sono avvenute all'Ilva, all'ex Ilva. Sì, effettivamente questa è la notizia, all'alba ci sono state 3 esplosioni all'interno dell'acciaieria, 2 nello stabilimento siderurgico, non ci sono stati feriti, altrimenti naturalmente ne avremmo parlato, ma ci sono stati degli squarci alle tubazioni della condotta di aspirazione del recupero del gas, e poi ci sarà la necessità di non chiudere, come era preventivata alla vigilia, l'acciaieria 1, proprio per i problemi che sono creati stanotte nell'acciaieria 2. Adesso invece, come annunciato dai titoli, parliamo della situazione normativa attorno alla questione dei monopattini, l'uso dei monopattini in città. Ebbene, il governo, a pochi giorni dalla pubblicazione della norma che li ha equiparati alle biciclette, i monopattini adesso tornano di nuovo al centro di quello che sembra essere l'ennesimo pasticcio all'italiana. Ce ne parla Maria Luisa Pezzali. sono stati uno dei regali più gettonati per Natale. Sono la scommessa di molte città che hanno deciso di puntare sulla micromobilità elettrica. Sono il cuore del business di molti big player dello sharing. Sui monopattini elettrici però la confusione regna sovrana. Dallo scorso 2 gennaio è in vigore la norma che, equiparandole alle biciclette, ha dato il via libera alla loro circolazione. Negli ultimi giorni però dal governo sono arrivate notizie contrastanti. Si torna alla fase di sperimentazione. Anzi no, l'equiparazione resta, ma il Ministero dei Trasporti lavora ad un testo condiviso per migliorarne la sicurezza. Allo stato dunque i monopattini elettrici possono circolare in strada o sulle piste ciclabili, non sui marciapiedi, su strade extraurbane, tangenziali e autostrade. Devono avere una potenza massima di 500 watt e una velocità massima di 20 km orari. Le vendite dei monopattini elettrici in Italia crescono del 250%, ma bisogna garantirne la sicurezza, sottolinea Pierfrancesco Cagliari di Confindustria ANCMA. Noi siamo favorevoli a quello che è lo sviluppo della micromobilità e dei monopattini. Naturalmente ci vogliono delle regole d'uso che siano volte alla sicurezza sia dell'utente sia di chi potrebbe trovarsi in mezzo. L'equiparazione con le biciclette non è giusta perché ci sono proprio condizioni d'uso completamente diverse. Non ci sono delle regole di costruzione come ci sono per le biciclette, anche se non sono omologate. Quindi abbiamo l'incognita di trovare dei prodotti che comunque possono essere virtualmente pericolosi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, speriamo che il governo trovi effettivamente un punto di equilibrio tra la base di partenza, che era la sperimentazione Toninelli, cioè i monopattini che non possono andare su strada, addirittura non possono andare su strada, cioè su marciapiedi, piste ciclabili, eccetera, eccetera, e poi la versione ultima di fine anno, i monopattini possono andare su strada e non più sui marciapiedi. Sicuramente non sui marciapiedi, perché vanno troppo veloci, questo è chiaro, ormai mi sembra che lo abbiamo capito un po' tutti, ma anche su strada devono andare con delle limitazioni, sia chiaro, perché sono più veloci delle biciclette e anche più repentini nel cambio di direzione. Quindi limitazioni e obblighi tipo il casco, le segnalazioni luminose, il clacson, che ne so, limiti di velocità, perché altrimenti rischiamo appunto di fare un caos sulle strade italiane. 13 e 28 minuti, 349-238-6666, andiamo in pausa, torniamo tra poco. Se volete scriverci siamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, dove c'è anche in corso la diretta streaming. A tra poco. Effetto Giorno. Luigi Di Maio annuncia ai ministri grillini le dimissioni dalla guida del Movimento 5 Stelle. Alle 17 una conferenza stampa. Conte rispetto alle sue scelte. Virus cinese sale da basso a moderato, il rischio di importare casi in Europa. Dipendenti dell'ASL di Reggio Calabria alle slot o a fare la spesa, notificati 13 provvedimenti. Sassari, multe ai pedoni che attraversano guardando il cellulare. In un anno gli incidenti sono calati del 22%. Tra poco l'intervista con il comandante della polizia locale. Sport, tennis, secondo turno amaro per Berrettini e Sinner, fuori dagli Australian Open, in campo Fognini contro l'australiano Thompson. minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Sulla questione monopattini regna il caos ovviamente, ma anche un caos normativo, e c'è anche nei vostri messaggi, si capisce. Dice questo ascoltatore Paolo da Monza: il caos nelle strade lo fanno i monopattini, punto esclamativo. È quello che abbiamo cercato di dire effettivamente, perché per via di queste norme che cambiano in continuazione, quindi anche gli stessi guidatori e monopattini non sanno bene quello che possono fare. di fatto, quello che ho detto io, vanno molto velocemente, hanno cambi di direzione molto repentini, quindi se vogliamo ammetterli ad andare su strada bisogna mettere chiari limiti di velocità, obbligo di segnalazioni luminose, il casco, catena di frangenti e quant'altro. Quindi siamo d'accordo su questo, caro ascoltatore. Poi commenti anche all'intervista al ministro della salute Roberto Speranza sulla questione dell'infermiere di famiglia. C'è Gianni da Novara che dice: quindi invece di assumere medici li sostituiscono con infermieri? Punto di domanda. No, non è così. I 20.000 infermieri sono infermieri nuovi da assumere in questo ruolo. Naturalmente io capisco la sua sensazione, che dice ci sarebbe bisogno di medici, invece carichiamo gli infermieri di nuovi compiti. Però bisogna avere anche la lucidità di guardare a come sta cambiando i bisogni della salute nel nostro paese con l'invecchiamento della popolazione. Mantenere i punti di forza, sicuramente, che sono la prevenzione, i medici di base, la medicina del territorio, però bisogna sicuramente cambiare qualche cosa. L'infermiere di famiglia è un anello di congiunzione, è un qualcosa che dovrebbe aggiungersi per togliere forse delle incombenze ai medici, che devono fare delle cose più importanti che non prevenire l'esame, mettere, insomma, scrivere il bollettino per fare poi l'esame, insomma, e l'esame diagnostico, le prestazioni, eccetera. Sono cose che possono essere, il resto lo sta facendo. Per fare un esempio diverso, dal punto di vista politico, la regione Lombardia con la riforma della cronicità con i tutor, eccetera. Quindi bisogna essere aperti alle novità da questo punto di vista. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, che naturalmente oggi è dedicato alla situazione politica. Il punto di Alberto Orioli. Luigi Di Maio si dimette da leader dei 5 Stelle, è stato scritto e detto anche così, ma la leadership c'è o non c'è, come il coraggio del Manzoni. Fa parte della confusione anche narrativa sui fatti dei 5 Stelle, un misto di ingenuità e ribellismo, di destra e di sinistra, di vanitosi personalismi, di idealismo narcisista e di voglia di fare in cerca di direzione. I maligni dicono che Di Maio voglia evitare di pagare lo scotto di una debacle emiliana data per certa. Chi lo vuole salvare dai fallimenti come Cesare di un movimento irrequieto e indisciplinato dice invece che vuole fare bene il ministro degli esteri. Chi non lo salva ricorda il nulla di fatto anche come ministro dello sviluppo economico e del lavoro sui tavoli di crisi e il flop del reddito di cittadinanza, sopravvissuto solo come strumento di carità pubblica. Il partito è una gioiosa macchina da guerra che ha perso 31 parlamentari e si dilania sui morosi che non versano le quote al partito e alla Casaleggio Associati. E ciò che è peggio, ha dimezzato i consensi e sembra ancora in fase di emorragia. Per i 5 Stelle è venuto il momento di crescere e il primo passo è ripensare l'idea cinica e disinvolta del partito liquido, utile solo a gestire potere. Le idee e l'identità alla fine contano. E la domanda è una sola: quale sarà il rapporto con il PD? Da questa risposta dipende il futuro pentastellato, ma soprattutto dipende il futuro del governo Conte 2. minuti e con noi il comandante della Polizia Locale di Sassari, Gianni Serra. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, come anticipato dai titoli, ci occupiamo di questo, delle novità che sono arrivate a Sassari un po' di tempo fa e che adesso siete in grado di fare un bilancio. La novità è questa: la multa ai pedoni che attraversano la strada guardando il cellulare. Perché se è vero che, le statistiche ce lo dicono, molti incidenti stradali sono dovuti alla distrazione e in moltissimi casi al fatto che il guidatore sta guardando il cellulare, questo accade anche per i pedoni. E ve ne siete accorti proprio voi a Sassari, con risultati, Serra, che sembrano incoraggianti, è vero? Certo. E dunque la scelta di promuovere la campagna Smartphone Zombie, noi abbiamo denominato la campagna di sicurezza stradale rivolta alla sicurezza dei pedoni Smartphone Zombie, sì. Nasce nel 2018, quindi, come ha detto correttamente, qualche anno fa, e nasce all'indomani dei dati statistici legati, ovviamente nel nostro territorio, al coinvolgimento di pedoni in incidenti stradali. Nel 2016 e nel 2017 nel territorio di Sassari avevamo avuto rispettivamente 94 e 93 pedoni investiti, addirittura il 23% del totale delle persone che avevano subito lesioni a causa di incidenti stradali. E da qui nasce ovviamente la decisione di studiare delle strategie di intervento. Perché? Perché questo fenomeno rappresentava una criticità. Per cui, per ragionare su una campagna incisiva, ovviamente devi partire sì. dall'analisi del fenomeno. Ecco, analizzando, monitorando il comportamento dei pedoni, abbiamo rilevato un dato che è sotto gli occhi di tutti, però ecco, parliamo di consapevolezza, probabilmente manca la consapevolezza del rischio. E il dato qual è però? Esatto. I pedoni sempre più spesso camminano per strada totalmente distratti dall'uso del cellulare. Quindi va bene che sei sulle strisce, però non è che puoi isolarti da tutto ecco, il resto. Magari anche sulle strisce, molte volte ignorano sì, anche la presenza anche delle strisce. Però anche sulle strisce, se tu hai lo sguardo rivolto sul display del telefonino, piuttosto che stai sfogliando pagine internet, è evidente che crei un rischio che è notevolissimo. Certo. Allora partiamo con la campagna Smartphone Zombie nel gennaio del 2018. Ovviamente, come dire, la prevalenza viene data all'azione di sensibilizzazione. Noi portiamo questa campagna, che viene realizzata con un primo video particolarmente significativo, lo portiamo nelle scuole, lo portiamo nelle piazze e facciamo in modo che ci sia in qualche modo una diversa consapevolezza da parte del pedone. E poi iniziamo. Poi arriva la fase delle multe, se ho capito esatto, bene. Esatto, iniziamo anche a dare un'attenzione marginale, ma comunque anche attenzione all'attività repressiva. Ecco, multe di che tipo? Quante multe avete dunque, fatto? Dunque, noi cosa facciamo? Non avendo nel codice della strada una norma sì. che sanziona in modo espresso questa condotta, noi attraverso un'interpretazione di una norma del codice che sanziona il pedone che attraversa la strada distratto, o meglio, quando non presta la massima attenzione, noi ecco adottiamo questa sanzione per il pedone che ovviamente attraversa la strada sì. Non lo dica troppo a voce alta, Serra, perché non vorrei che qualcuno lo sentisse bene, facesse un bel ricorso al TAR e bloccasse subito ma questa sperimentazione ritengo, che mi sembra molto interessante, perché venendo ai risultati, no, visto che non abbiamo certo. tantissimo tempo a disposizione, quindi una fase di sensibilizzazione con campagne, video esatto. eccetera, poi una fase di repressiva con delle multe, risultato esatto. gli incidenti sono calati con i pedoni coinvolti, sì, giusto? Di quanto? Questi anni del 22%, quindi un dato confortante che ci ha spinto a promuovere per il terzo anno consecutivo questa campagna con la speranza, noi siamo l'unico comando in Italia, forse in Europa, ecco, la speranza che veramente questa consapevolezza si crei nelle istituzioni piuttosto che nell'opinione pubblica, perché probabilmente un'azione energica finalizzata ad arginare questo fenomeno oggi sì. ci permette di lavorare più serenamente. Nel Senta prossimo. Serra, glielo devo chiedere sì. come comandante della Polizia Locale però di Sassari, perché c'è un messaggio che ci chiede di chiederglielo. Sì, sì, quante sì, multe sì. hanno fatto agli automobilisti al cellulare? Cioè a sottendere che ve la siete presa solo sì, con allora, i pedoni e non con gli automobilisti? Non credo. Però esatto, dunque, no, ecco, i pedoni, questa è una campagna rivolta sì. ai pedoni. È evidente che il problema centrale in Italia è rappresentato dagli automobilisti che usano il telefono e su questo ovviamente non c'è come dubbio, dire però... è un dato assodato. Però ecco, questa è una condotta che purtroppo sta prendendo piede. Allora interveniamo con la consapevolezza. L'attività sanzionatoria è marginale. Noi abbiamo rilevato 150 sanzioni nel 2018, 134 nel 2019. Quindi abbiamo relegato la repressione, diciamo, in un angolo rispetto a quello che va noi bene. Vorremmo lanciare. Il messaggio. L'importante, siamo attenti. Certo, Serra, mi per concludere, l'importante certo. sono questo meno 22% di incidenti che coinvolgono i pedoni e quindi esatto. sono meno persone fortunate e meno vittime esatto, e quindi esatto. mi sembra, se non altro per questo, una strada interessante da seguire. Grazie al comandante grazie. Della Polizia grazie Locale di Sassari. Grazie a voi per avermi sentito, grazie mille, buongiorno. Allora, è il momento dello sport e come sempre in anticipazione di tutti i convocati con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, io qua davanti a me il risultato del quinto set di Fognini. Anch'io sto guardando la stessa cosa. 5-4 Fognini, quinto set, parità in questo momento con l'australiano Thompson. Fognini ha 40 pari su sì, questo game. Sì, sì, sono in parità. Thompson che sta servendo ha appena annullato un match ball di Fognini. Eccolo. Comunque Fognini, ci aggrappiamo a lui, quinto set perché la pattuglia italiana ha subito una sforbiciata, sì, Sinner ha perso, Berrettini ha perso, Fognini che in campo contro Thompson, australiano, stava vincendo 2-2, 7-0, secondo set spaziale di Fognini, vinto 6-1, poi ha perso gli altri due set, ora sta giocando al quinto e proveremo a dirvi qualcosa di più preciso in tutti i convocati, dove è previsto anche ampio appuntamento, ampia pagina con Stefano Melocaro dalle 14:35. Prima parleremo, vi daremo i risultati di questa partita, perché ovviamente sarà finita, certo, io credo. Manca poco. E poi parleremo di vantaggio Thompson di ieri intanto. Sera. Sì, mi sa che diventa lunga. Vabbè, vediamo. La partita di ieri sera, cioè il Napoli che rialza la testa, la Lazio cui per una volta le stelle girano la schiena, sbaglia un rigore con Immobile, pali, traverse, espulsione, è successo un po' di tutto, fatto sta che il Napoli passa. Ma stasera c'è un'altra partita? Stasera c'è Juventus-Roma, quindi un'altra partita non banale. Bella. Sì, Coppa Italia che insomma entra in una fase più interessante e divertente, poi essendo eliminazione diretta, partita secca, diventa sempre più appassionante, insomma. Parleremo anche di mercato, naturalmente. Vi aspetto gli ascoltatori 349-238-6666 con i loro commenti vocali. A tra poco, allora, Carlo. Grazie per quanto riguarda tutti i convocati. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Giornale internazionale, Giulia Crivelli.